Bordo Campo di Dario Ricci. È un amore intenso, profondo, quello che lega il rugby all'Abruzzo, all'Aquila. Un legame tra una città e la pallovale che risale addirittura agli anni 30, quando da Roma alcuni giovani militari iniziarono a portare proprio all'Aquila l'amore per questo sport. Non sorprende allora trovare proprio i giocatori dell'Aquila Rugby, le loro gloriose maglie nero-verdi in prima fila nei soccorsi alle persone che nel terremoto di lunedì 6 aprile alle 3:30 del mattino hanno perso tutto, il terremoto che ha colpito l'Aquila e la sua provincia. Soccorritori ma anche vittime del sisma i rugbisti aquilani. La testimonianza di Stefano Varrella, 29 anni, centro dell'Aquila Rugby, al microfono di Alessio Maurizi. Io al momento del terremoto erano le 3:30 di notte, trovavo in camera con la mia ragazza. Eravamo a letto, abbiamo sentito un boato. Siccome negli ultimi tempi eravamo piuttosto abituati purtroppo a delle onde sismiche piuttosto potenti, siamo quasi rimasti un po' sornioni i primi 2-3 secondi. Dopodiché abbiamo sentito un boato ancora più forte, delle onde fortissime, e io mi sono buttato sulla mia ragazza per proteggerla. Dopodiché, quando è finito il terremoto, ci siamo vestiti in fretta e siamo usciti di casa. Ci siamo ritrovati nel parcheggio sottostante degli appartamenti adibiti agli atleti su un giocatore di rugby di L'Aquila. E niente, siamo trovati lì sotto tutti quanti, abbiamo cominciato a scardinare il cancello elettrico che era rimasto chiuso, bloccato per la mancanza di elettricità. Molta paura, naturalmente, immagino. Sì, anche perché, le ripeto, è stato così, così forte e così improvviso. Io ho 29 anni, onestamente a memoria mia non mi ricordo niente di così forte e potente, anche se negli ultimi giorni c'erano state anche onde di 3,5, 3,9 della scala Richter, insomma, anche se quelle ci avevano colto un po' così, di sorpresa, tutto nella norma. Questa stanotte è stata veramente terribile. In pochi secondi dal letto alla strada, giusto il tempo di rendersi conto di essere ancora vivi per correre verso un rifugio sicuro. Ancora Varrella. Dopo aver diverso il cancello automatico siamo andati via, praticamente in dei posti aperti, tipo parcheggi, cose del genere. Io mi trovo dalle 6 la mattina in questo parcheggio di un centro commerciale, la Coop di Amiterno, vicino la parte di una periferia di L'Aquila, e ci sono un sacco di persone, un sacco di macchine parcheggiate. Non so se è una pensata furba, abbiamo pensato però tutto terra di andare in questo parcheggio che è comunque a piano terra, non è assolutamente sopraelevato, quindi abbiamo detto magari una zona aperta è più difficile, a meno che non si apre la gola, sia più difficile insomma scampare in qualche disastro. Qui sorvolano un sacco di elicotteri dei carabinieri e della guardia di finanza e dei pompieri, è tutto un via vai di elicotteri. A questo punto, secondo lei, si poteva, dal suo punto di vista, fare qualcosa di più per prevedere questa situazione? Guardi, oppure no? La mia ragazza preventivamente aveva dato addirittura una valigia, io l'ho presa addirittura in giro. Sì, sicuramente si poteva fare qualcosa di più, però in questo caso, secondo me, visto che c'è stata comunque una forte incidenza dei terremoti in questo territorio, si poteva creare anche l'effetto opposto di caos e basta. Non lo so, guardi, è così difficile avere a che fare con la massa e con la folla impazzita per la paura, che è veramente, spesso come si fa, si sbaglia sempre, quindi non saprei che cosa dirle. La notizia del sisma si diffonde, parte il tam tam del mondo del rugby. Giancarlo Dondi, presidente della Federrugby, prova a contattare alcuni amici aquilani. Ho visto delle immagini terrificanti, veramente, mi ha ricordato altri periodi bruttissimi che abbiamo passato dal terremoto nel Friuli, il Belice, tutte queste cose qua. E poi è una cosa che nessuno poi si aspettava, sono onestamente. A me, quando me l'hanno detto un mattino, ho mandato un'email perché non rispondeva l'amico, la risposta è stata: stiamo bene, grazie a Dio, però la nostra casa non c'è più. Insomma, mi sembrava anche esagerato, no? Poi dopo, visto dalle foto, è stata una catastrofe. Quel filo rosso che lega la città alla storia della palla ovale italiana è più forte delle scosse, del dolore, della tragedia. Ancora Dondi. Ma questa città, il rugby, è sorto negli anni 30, naturalmente hanno sempre avuto uno dei vivai migliori italiani, hanno dato tantissimi giocatori alla nazionale italiana e sono riusciti anche a vincere degli scudetti. Naturalmente poi con l'evoluzione del nostro sport verso una forma professionistica, naturalmente sono rimasti un po' fuori, però chiaramente hanno dei grandi meriti tutti questi ragazzi qua per aver fatto crescere il rugby italiano e si è arrivato qua in gran parte anche merito loro, insomma. Il pensiero vola subito allo Stadio Fattori, la casa dell'Aquila Rugby. Il ricordo di Dondi, 74 anni, va alle tante partite giocate su quell'erba, quell'erba che ora ospita le tendopoli per chi ha perso casa, per chi ha perso tutto. Ricordo che quando andai a giocare l'Aquila per la prima volta, andai a questo Stadio Fattori, un tifo incredibile, a un certo punto chiaramente noi ci siamo trovati molto a disagio, anche se io giocavo nella Rugby Parma, che era una delle squadre più quotate a livello nazionale, ecco, però sembrava che tutto finisse il mondo quasi, cioè, poi dopo alla fine proprio hanno dimostrato che nel terzo tempo siamo tornati ad essere tutti assieme, tutti amici, e alla fine dei conti poi neanche a farla apposta, il risultato è stato pari, capito? Comunque era una cosa caratteristica andare a giocare là, perché praticamente non c'era ancora l'autostrada, si andava su col trenino da Terni, altro mondo, però sono sempre stati giocatori con tanto carattere, giocatori con tanta grinta, però in fondo con lo spirito dei rugbisti, come hanno dimostrato anche in questa occasione. Cuore e orgoglio per spingere l'Aquila fuori dalla mischia. Dario Pallotta, 23 anni, ala centro dei Neroverdi, ci racconta così la paura, il coraggio, il lavoro di ogni giorno e il dolore per la morte del compagno di squadra Lorenzo Sebastiani, 20 anni, inghiottito dalle macerie. Adesso siamo impegnati praticamente tutti nelle varie tendopoli qui ad Aquila e fuori. Stiamo cercando di capire quello che manca e grazie anche al sostegno che ci sta portando tutta l'Italia con i ragazzi di Colleferro e di altre parti d'Italia che ci chiamano insistentemente dicendoci cosa manca e noi facciamo le liste e loro prontamente ce lo portano partendo da tutte le parti d'Italia, ti ripeto. Niente, stiamo cercando di dare una mano qui nelle tendopoli visto che il grande lavoro è stato fatto. Il lavoro più grande che non è che abbiamo fatto nel rugbyista è stato fatto da tutta la città dell'Aquila e da veramente tutta la protezione civile è stato quello di sgomberare un ospedale che era stato considerato pericolante. Tu sei stato in prima linea da subito, tant'è che hai partecipato attivamente anche al salvataggio di alcune persone, no? Proprio negli immediati minuti della prima fortissima scossa. Sì, sono stati attimi veramente agghiaccianti, tragici, certo, poi ti ritrovi in situazioni che nemmeno tu sai come gestire, gestisci secondo il tuo istinto. E Dario, ti ripeto, queste sono cose che avrebbe fatto una persona chiunque, non uno come me perché gioca a rugby, queste sono cose che io spero avrebbe fatto una persona chiunque, cioè portare un aiuto a chi ha veramente necessità di aiuto. Gli eroi sono altri, sono tutte quelle persone che stanno lavorando e estraendo le persone che forse sono morte, rischiavano la vita in continuazione in ogni istante, quei sono i veri eroi. E poi ci sono persone che fanno delle cose più grandi e molto, in un certo senso, più rilevanti di quelle che abbiamo fatto noi, come non solo me, ma penso come anche tantissima altra gente che ha dato sostegno nei primi istanti dopo la scossa delle e mezzo. In particolare tu hai aiutato una coppia di anziani, vero, a liberarsi, sì, dalle macerie. Sì, guarda, è un momento veramente bruttissimo, ho visto una casa distrutta, una casa, un appartamento di 3 piani praticamente riunito in uno perché erano crollati muri, tetti, pavimenti, scale, si erano rotti i tubi dell'acqua, ecco, io ho di quei minuti, lunghi minuti, ricordo solo di quei vecchietti imprigionati in questo tramezzo, bloccati dalle macerie, e niente, quella casa distrutta, dilaniata dalla scossa, un odore fortissimo di gas, e niente, abbiamo fatto fatica a portare il giù, ma è quello che ti avrebbe fatto, ti ripeto, chiunque. So anche che c'è Massimo Mascioletti anche in prima linea con voi, sì, sì. Lui che è veramente un mito del rugby aquilano. Sì. Ci sta dando una grande mano, un grande sostegno morale, sai, Massimo è una persona molto, molto forte, e quindi ecco, a noi ci sta indirizzando anche su una strada di ripresa, diciamo, psicologica. Quindi Massimo, poi del resto lo sapete tutti com'è. Campione della pallovale, ma anche di generosità. Ti chiedo ancora, vedere la vostra casa, che è lo Stadio Fattori, che è uno dei cuori pulsanti di L'Aquila, trasformato in tendopoli, che effetto vi fa? Ci fa un effetto, strano, anche lo stadio d'Acqua Santa, dove versiamo veramente ogni giorno, abbiamo versato il sudore tra mille allenamenti, adesso una tendopoli, ma se serve per queste cose, non puoi rimanere indifferente a queste cose, cioè dobbiamo farci una ragione di quello che è successo. È stato difficilissimo e sarà difficilissimo per l'Aquila rinascere, ma per come siamo fatti noi, secondo me rinasceremo più forti. Questa è l'unica cosa che ti posso dire, perché veramente in questi giorni tutti gli aquilani stanno veramente lavorando come i dannati, non si ferma nessuno, è una città vuota, ma del resto che continua a correre. C'è anche una tragedia che vi ha colpito ancora più da vicino, Lorenzo Sebastiani. La vita è ingiusta, io non ho parole, io Lorenzo, oltre Ciccio, non era un mio compagno di strada, era un mio amico, era una persona con la quale condividevo il resto, non solo il campo. Non ce ne facciamo ancora la ragione, ti dico, io ho sperato fino all'ultimo secondo e niente, mi verrebbe voglia di dirti che vogliamo vincere tutto quello che c'è da vincere, non per quello che è successo, ma per Ciccio, che rimarrà e sarà sempre con noi in quei campi da rugby, ecco. L'Aquila continua a giocare la sua partita più difficile e la vincerà, spinta anche dall'amore e dal cuore dei suoi campioni neroverdi. Il presidente della Federrugby, Giancarlo Dondi. Dico forte ragazzi, facciamo parte di uno sport molto coraggioso, è un momento molto difficile, anche per i vostri amici. Come al solito stiamo assieme, spingiamo tutti dalla stessa parte e cerchiamo di far sì che di trovare la forza di superare questo difficile momento. A bordo campo. Kerim Zeteo, Seb Kimu. Centravanti Giramondo, 24 anni, nato in Francia, di nazionalità algerina, esploso in Italia. Abdelkader Ghezzal, bomber del Siena, è ospite oggi a bordo campo per parlare di calcio, certo, ma anche di razzismo, banlieue, fischi alla marsigliese, Africa, multiculturalismo. E allora Abdel, partiamo subito, raccontaci come hai scoperto la tua passione per il calcio e come poi sei arrivato al calcio che conta. Io praticamente sono nato in Francia di genitori algerini, comunque sono sempre cresciuto in Francia. Ho iniziato a giocare in Francia, andando fino a giocare in Serie C, e poi da lì ho avuto un provino nel Crotone 4 anni fa e sono arrivato in Italia. Infatti, sei arrivato in Italia, hai cominciato la tua carriera nelle serie minori prima di arrivare a Siena. Una storia, la tua, molto simile anche a quella di un altro grande campione franco-algerino, no? Karim Benzema, anche lui cresciuto nelle banlieue e poi esploso nel Lione. Sì, lui facendo anche il centro, tutti i giovani del Lione, poi esploso proprio nel Lione. Anche tu hai, di fatto sei cresciuto proprio nella periferia di Lione, a Volen-Velen, vero? Sì, esatto. È una periferia particolare, no? Quella che spesso noi in Italia abbiamo conosciuto come, con l'epiteto, come la banlieue, no? Una realtà particolarmente complessa, spesso agli onori della cronaca per la situazione sociale molto difficile in queste aree. Ecco, com'è il calcio delle banlieue? È una immagino che sia anche una vera e propria scuola di vita. Sì, a parte che è sport più, diciamo, più facile da praticare, perché alla fine nelle borghe basta avere il tesserino e gioca a calcio, diverso di altri sport che tipo il tennis, questi sport qui. E poi chiaramente nelle borghe si gioca a calcio, diciamo. È anche il calcio di strada, che forse è quello che adesso sta piano piano scomparendo, no? Sì, infatti io dopo gli allenamenti facevo molto torneo, queste cose qui, si gioca molto, diciamo, giochiamo molto, molto nel quartiere, queste cose qui, e poi ho avuto la fortuna di uscire di questo, dalla mia squadra, del mio quartiere, arrivando in Italia. Ecco, e come avviene la selezione dei talenti? C'è proprio una struttura, ad esempio, del Lione, no? So che ci sono gli osservatori che in qualche modo lavorano proprio a contatto con i giovani delle banlieue. Sì, e poi con il fatto che proprio esploso Karim Benzema, e anche un altro che era al Lione, che si chiama Ben Arfa. Praticamente con queste due hanno aperto un po' di più, diciamo, un po' di più agli osservatori che comunque sono su diversi campi per cercare un po', diciamo, il nuovo Benzema. Certo, oppure il nuovo Ghezzal. Magari. Di fatto però questo legame, no, che in qualche modo il calcio crea tra la possibilità di crescita sociale e il difficile ambiente delle banlieue, sembra essere però uno dei pochi legami vivi, no, tra questa realtà e la società viva della Francia. In realtà le banlieue, per come ci vengono descritte, sembrano delle realtà a sé stanti, con le loro leggi, con le loro regole sociali, molto difficili in qualche modo da contestualizzare nella vita della Francia di oggi. È un'impressione, oppure tu puoi confermarci questa sensazione? No, è chiaro che sono situazioni un po' difficili, anche se per dire la mia banlieue, se rispetto a prima, diciamo, è meno grave, si è calmato molto. Però devo dire che comunque, anche se ti impara a avere fama, ti dà la forza in più per, se hai in testa, andare a cercare qualcosa in più. 10 anni fa, su per giù nel 1998, la Francia di un altro grande franco-algerino, Zinedine Zidane, ma anche di grandi campioni come Thuram, Djorkaeff, Karembeu, diventava campione del mondo proprio e festeggiava nei Campi Elisi questa vittoria proprio all'insegna del multiculturalismo, no? Del fatto di essere la nazione che in qualche modo aveva unificato... Anche straniere. Esattamente, la nazione non solo dei francesi ma di tutte le etnie che vivevano in Francia. Oggi questa concordia sembra essere perduta, è così, è una impressione che anche tu condividi, e secondo te perché? Ma non lo so, perché penso che comunque anche la Francia rispetto a 10 anni fa è un po' cambiato, poi non lo so, era la generazione, come l'ha detto lei, c'era Thuram, c'era tanti giocatori di colore in nazionale, poi piano piano questa generazione è andata via, sono arrivati altri giocatori, però penso che i nazionali francesi sono sempre, dico straniere, però alla fine sono sempre francese perché sono nato in Francia e appartengo anche alla nazionale francese. Tu nel momento in cui hai dovuto scegliere per quale nazionale giocare, però non hai scelto la Francia, che pure magari poteva offrirti maggiori possibilità di visibilità a livello internazionale, ma l'Algeria, no? Non hai avuto dubbi in questo senso? No, io quando ho fatto la mia scelta potevo, essendo anche giovane e evoluendo anche in Serie A, potevo anche aspettare, magari cercando di aspettare la chiamata francese. Poi quando ho fatto la mia scelta, ho fatto una scelta di cuore dove mi sentivo di andare e ho scelto l'Algerina, diciamo. Il cuore ha avuto la meglio sulla ragione, insomma. Sì. E senti, hai mai rimpianto in qualche modo questa scelta sotto il profilo calcistico almeno? No, sinceramente no, perché poi alla fine io dico sempre, è chiaro che la nazionale francese può darti più, come l'ha detto lei, più soddisfazione sul punto magari prestigioso, però io alla fine la nazionale è sempre la nazionale, che sia algerina o francese, io la vedo così. Ogni volta che vado alla nazionale algerina mi tolgo grandissima soddisfazione, sono contento e orgoglioso. L'obiettivo immagino sia Sudafrica 2010. È chiaro, speriamo. In questi mesi c'è stata anche notevole polemica per i fischi alla Marsigliese, no? C'è stata l'amichevole con la Tunisia vinta dalla Francia e i fischi di gran parte del pubblico alla Marsigliese, la solenne arrabbiatura di Sarkozy. Che effetto ti hanno fatto quei fischi? Comunque sono sempre, penso, fischi sbagliato. Sono sempre fischi sbagliati perché la maggior parte che penso che hanno fischiato con la Marsigliese vivano tutti in Francia. Non, infatti neanche io non ho capito perché è stato fatto questo gesto, insomma, perché alla fine la maggior parte hanno voluto venire a vivere in Francia, cercare magari anche una situazione un po' migliore rispetto al loro paese di origine. Poi andare allo stadio per sentire la Marsigliese, penso che è un gesto sbagliato. In Italia invece ti è mai capitato di dover vivere sul campo di gioco, magari, o anche fuori, delle situazioni di razzismo, di discriminazione? No, io da adesso 4 anni che sto in Italia, mai, ma che sia nelle strade o con i tifosi o anche con gente normale, mai. Devo dire che mi sono sempre trovato molto bene. Ecco, e credi che da questo punto di vista il calcio italiano in particolare, perché vedo che in Francia il tema è molto vivo, ma pensi che in Italia si faccia abbastanza per isolare i razzisti negli stadi o comunque risolvere il problema? Sì, ma penso che anche l'Italia anche prima che venissi in Italia mi dicevano ma magari se c'è un paese un po' diciamo razzista, però da quando ci sono io non vedo per niente questo fatto, perché non ho mai visto, a me non mi è mai capitato niente, e anche se leggendo i giornali tutte queste cose non è che ho visto grandi fatti su sta cosa, diciamo. Il calcio da questo punto di vista credi possa offrire un contributo specifico in qualche modo a superare delle differenze di religione, di etnia? Pensi possa essere effettivamente un linguaggio comune, oppure di fatto ormai contano i 3 punti, conta la vittoria, quello che conta è il risultato? No, ma comunque il calcio aiuta molto, perché vedendo il calcio di oggi, adesso anche vedo in nazionale cercano di naturalizzare Amauri, c'era Camoranesi, e secondo me è una cosa di aiuto, può aiutare molto. Non penso che una squadra, ormai ci sono stranieri in ogni squadra, e non penso che si vivi per punto lì, penso che veramente la gente che viene a giocare in Italia ci sta bene comunque. Quindi insomma è più importante alla fine la passione, l'appartenenza alla, alla maglia piuttosto che il luogo di nascita, diciamo così. Sì, io la vedo così. Senti, ma ti è mai capitato di giocare con la nazionale algerina contro la Francia? Già ti è capitato in carriera? No, ancora no. Come te la immagini quella sfida? Immagino che te la... magari speri di giocarti la Città del Capo, diciamo così, fra un annetto. Sì, sì, magari. Mi piacerebbe molto, anche... E a me mi piacerebbe molto, perché sarebbe una, per me una grande, un grande orgoglio di poter anche giocare contro la Francia, dove sono sempre vissute. Per me sarebbe una cosa molto bella. Immagino anche che forse in camera avrai ancora un poster di Zidane. Sì, non ce l'ho, però è un giocatore che per chi ho sempre tifato. Invece del calcio algerino, qual è il tuo grande campione? Io ricordo il tacco di Allaria, Rabat Majer. Sì, dove diciamo in Algeria è il giocatore più famoso per questo famoso tacco. E il tuo idolo? In Algeria? Sì, nel calcio algerino. Sì, basta, sarebbe lui. Sarebbe lui, perché poi alla fine non è che ci sono tanti. Però rispetto alla Francia, però è chiaro che per il calcio algerino sarebbe Rabat Majer. Grazie al bomber del Siena Abdelkader Ghezzal per essere stato nostro ospite e grazie anche a Carmelo Lauricella per la preziosa collaborazione in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.